America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero, Barack Obama ha inviato al Congresso il suo bilancio 2014 e un ramoscello d'ulivo per cercare di chiuderla con il sequester, con quei tagli automatici che potrebbero tagliare fino a 400.000 posti di lavoro nell'economia americana soltanto quest'anno, per cercare di così chiudere un compromesso e per così tendere la mano. Il presidente americano ha accettato di ridurre alcune spese sociali, cosa che non aveva mai fatto prima. Per esempio, non ci saranno alcuni aggiustamenti al costo della vita per trasferimenti pensionistici, quindi un'azione sulle pensioni. Ha accettato di ridurre in parte le spese sanitarie. In cambio, il presidente chiede che ci sia comunque un aumento delle entrate per lo Stato attraverso l'eliminazione così di deduzioni, benefici fiscali che poi vanno alla fine a vantaggio soltanto dei più ricchi. Per esempio, vorrebbe togliere la possibilità di poter dedurre completamente il costo dell'acquisto di un aereo privato. That's what the so-called sequester means. Some people may not have been impacted, but there are a lot of folks who are being increasingly impacted all across this country, and that's why my budget replaces these cuts with smarter ones. Avete sentito Obama? Il significato di questo suo bilancio è forse più politico che economico. Dice, beh, insomma, abbiamo il sequestro in corso, questi tagli automatici stanno creando veramente difficoltà per molti cittadini e ne risentiranno sempre di più in tutto il paese andando avanti. E dunque il mio bilancio, dice Obama, rimpiazza questi tagli con riforme a lungo termine, più intelligenti. Se ci mettiamo insieme con buonsenso, spirito di compromesso, per un serio, ragionato dibattito non guidato dalla politica, sono sicuro che potremmo andare avanti, potremmo aiutare il paese. Dunque non ci sono, dice Barack Obama, vacche sacre per nessuno dei due partiti, ognuno deve fare il suo sacrificio. Ecco, è stato lui in effetti a fare un passo in avanti. Adesso dovremo vedere cosa faranno i repubblicani. John Boehner ha già reagito dicendo che dal suo punto di vista di aumentare gli introiti dello Stato non se ne parla, bisognerà continuare a incidere sui tagli alle spese. Ci sono però dei senatori repubblicani moderati che si sono visti tra l'altro ieri sera con il presidente americano, che potrebbero così in qualche modo muoversi verso un compromesso, e dunque emerge il modello politico secondo il quale il presidente gioca di sponda con il Senato, che ha maggioranza democratica, riesce a mettere insieme un pacchetto di legge che funziona, e a quel punto si crea alla Camera una maggioranza bipartisan dove i democratici si uniscono ad alcuni repubblicani moderati alla Camera, perché alcuni ci sono, e riescono a fare una maggioranza. Questa possibilità è concreta perché l'abbiamo già vista in azione, per esempio quando si è trattato di negoziare il fiscal cliff. Ma non si è parlato in America solo di bilancio ieri, non si è parlato solo della possibilità di ridurre il disavanzo pubblico americano già l'anno prossimo al 4,2% nel rapporto disavanzo PIL, pensate, rispetto al 10,1% del rapporto disavanzo PIL nel momento più difficile della recessione per il 2023. Dunque alla fine di questa manovra, che Obama ha precisato una manovra decennale che prevede tagli di spesa per 1.800 miliardi, il rapporto disavanzo PIL sarà all'1,7%. Ecco, svolta importante dunque, ma non è stata l'unica svolta ieri in America. Ci sono state una serie di belle notizie molto interessanti. Una di queste riguarda Loder, riguarda Leonard Loder, che è un grande imprenditore, con la madre Esté ha creato uno dei più grandi imperi del settore della cosmetica al mondo, e ha fatto una donazione straordinaria. Pensate, ha regalato $1 miliardo in opere d'arte al Metropolitan Museum. Un gesto straordinario. Sentiamo Loder. So in the spirit of the Carnegie Award and Andrew Carnegie, I urge you all to help us open those doors and open your hearts to these new immigrants who can help make this nation great and who can help give back to this nation the way our parents taught us how to do, in which I hope we'll all learn how to do. Ecco, Loder, che è un grande filantropo, perché non è la prima volta che fa delle donazioni, racconta come sia importante restituire. In America c'è questo principio fondamentale, bisogna restituire, give back. C'è un aspetto importante, non soltanto dal punto di vista della generosità, perché, ripeto, privarsi di $1 miliardo di opere d'arte e regalarle al Metropolitan Museum non è cosa da poco. Però ha segnato anche una svolta storica, devo dire, Loder, perché Questa sua collezione è una delle più importanti nel cubismo e il Metropolitan, insomma, è notoriamente debole nel campo dell'arte del secolo scorso. Ebbene, con questa donazione sale improvvisamente in graduatoria nel contesto dell'arte moderna e contemporanea e così si pone di fianco al Museum of Modern Art di New York o al Centre Pompidou di Parigi. Infine, per chiudere, un'altra buona notizia, notizia interessante: il Dow Jones ha chiuso al rialzo dello 0,88%, 129 punti. Beh, qual è la novità? La novità è che a quota 14.802, un nuovo record, ormai di record ne fa parecchi, insomma ne ha fatti uno dietro l'altro, però ci stiamo ormai avvicinando rapidamente a quota 15.000, che è una quota psicologica molto importante. Ci sono una serie di dinamiche che stanno regolando questa corsa in borsa, dinamiche devo dire molto interessanti, che hanno a che fare anche con la politica monetaria giapponese, con la conferma che la politica monetaria americana resterà molto accomodante per un periodo almeno fra i prossimi 3 e 6 mesi, e dunque è molto interessante acquistare titoli in borsa. Tre notizie che dovrebbero farci riflettere: c'è un modello americano che è stato un modello per la crescita, per l'indebitamento, non un modello per l'austerità assoluta, un modello terrorizzato dall'inflazione come è il modello tedesco che poi si è imposto in Europa continentale. C'è anche la sensazione del fatto che le cose si fanno, non si perde tempo, e chissà, magari qualche lezione potremmo impararla anche noi. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica, che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPratero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, ieri sera a New York c'è stato Sixto Rodriguez, ha fatto un concerto. E chi è Sixto Rodriguez? Beh, è un cantante che era scomparso dalla scena, di lui non si sapeva più nulla. A un certo punto era diventato una celebrità in Sudafrica perché aveva questo suo messaggio molto simbolico per la libertà. Dopodiché un giornalista lo ha riscoperto e pensate, era davvero scomparso nel nulla lui, che era stato a un certo punto una celebrità e lavorava nel settore delle demolizioni. A quel punto la sua storia è diventata una storia fantastica, se ne è fatto un documentario, Searching for Sugarman, che ha vinto premio Oscar, adesso l'ultimo premio Oscar, e dunque dedico a lui la canzone del giorno, Sixto Rodriguez a New York, I Wonder. I wonder, will this hatred ever end? I wonder, and worry my friend. I wonder, wonder don't you? È tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!